Letture di Radio 24. Il popolo dei timidi e introversi conta esponenti illustri come Obama, Bill Gates e Spielberg. Una minoranza che ora si prepara alla rivolta contro la maggioranza rappresentata dagli estroversi. Ne è convinta Susan Cain, autrice di un libro in cui sostiene e difende le ragioni degli introversi. Fingere. Questa è la regola degli introvert, gli introversi, i timidi, quelli che alle feste vorrebbero chiudersi in bagno, quelli che se già ci sono arrivati alle feste si sono fatti violenza, perché la mondanità è un pianeta sconosciuto, è il mondo degli estroversi, dell'altra metà del cielo. A far uscire allo scoperto i timidoni è stato un libro scritto da una signora che ha fatto l'avvocato in un grande studio americano, fingendo per anni di sentirsi tagliata per quel mestiere, finché non si è licenziata. Ora fa consulenze e scrive, e sta molto per conto suo. Per Susan Cain, Quiet, The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking non è soltanto un libro cui ha dedicato anni di ricerche, ma è la miccia che farà scoppiare la rivolta della minoranza introversa contro la maggioranza estroversa. È l'inno di guerra di un popolo che si riconosce fin da piccolo, perché sente i genitori che si scusano. È molto timido, perdonatelo. E i maestri che sputano diagnosi per giustificare la lentezza, la pigrizia, la noia di bambini che non s'accompagnano con gli altri, ma preferiscono disegnare da soli, leggere da soli, giocare da soli. E badate bene, dicono i maestri con stupore, non sono tristi. Gli introversi sono soli per scelta, perché nulla batte una serata in casa a leggere un libro. Gli introversi non sono nerd condannati all'infelicità, anzi, sono quelli che rendono meglio quando dormono poco e sono quelli che meno tradiscono i loro partner. Volete i nomi? Albert Einstein era un introverso. Proust, George Orwell, anche Hillary Clinton è un'introversa. Suo marito evidentemente è un estroverso. Warren Buffett e Bill Gates sono introversi. Pure il grande affascinatore di popoli Barack Obama è un introverso, come anche Steven Spielberg. La finzione è la chiave del successo degli introversi. Un professore di Harvard, Brian Little, sostiene che in ogni attività sociale gli uomini sono disposti a scendere a compromessi con la propria personalità per non dover pagare il prezzo alto della asocialità. Fingi di star bene in mezzo alla gente perché essere additato come quello strano è più costoso. Gli estroversi non sanno cosa voglia dire. Sono sempre al centro dell'attenzione, vivono in sintonia con l'universo, anzi il mondo pare cucito addosso a loro. A meno che non finiscano in una stanza vuota per troppo tempo. Gli introversi possono fingere, ma da soli, gli estroversi, di solito piangono. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Paola Peduzzi Nella stanza degli introversi, dal numero di aprile del mensile Il. Letture di Radio 24. Alle 22 del 25 aprile 1945, la radio trasmette la notizia della liberazione. Non si tratta della radio nazionale, ma di una piccola radio di Busto Arsizio, in provincia di Varese. L'emittente era di proprietà dell'EIAR e trasmetteva con il nome di Radio Tevere. L'ingegner Giovanni Lombardo, all'epoca capocentro della radio, ricorda gli avvenimenti di quei giorni. In Busto non esistevano locali, né tantomeno studi, per l'esecuzione di programmi, né possedevamo apparecchiature atte alla ripresa sonora. È opportuno ricordare che la caratteristica delle onde corte è di poter essere ricevute solo a grande distanza. Così era impossibile essere ricevuti, per esempio, da Busto a Gallarate o a Legnano, mentre era facilissimo essere ascoltati in Africa, Sicilia o in qualsiasi altra parte del mondo. Il centro radio era presidiato da un piccolo gruppo di militari tedeschi che pernottavano in una stanzetta attrezzata con due letti a castello. Intorno al 10 aprile circa, nell'intervallo di riposo del presidio tedesco, arrivò, cosa insolita, un'automobile, dalla quale scesero tre persone, di cui due armate con mitra. Il terzo signore chiese di parlare con me e con mio sommo stupore disse, in perfetto italiano, di essere un agente segreto americano dell'OSS, missione Chrysler, di chiamarsi Aldo Icardi, nativo di Pittsburgh. Soggiunse che da quel momento i trasmettitori dovevano considerarsi occupati dalle truppe alleate, che non dovevano mai più trasmettere i programmi provenienti da Milano e che invece avremmo dovuto trasmettere programmi prodotti nella sede di Busto Arsizio. Feci subito presente al tenente Icardi l'impossibilità di realizzare quanto da lui richiesto, perché sprovvisti di ogni materiale. Egli non volle sentir ragioni e dopo alcuni giorni mi inviò due magnifici microfoni americani nuovi di zecca ad altissima fedeltà. A questo punto è chiaro che restavamo impegnati a fare quanto Icardi ci aveva ordinato e che da parte nostra era necessario predisporre le apparecchiature indispensabili alle riprese sonore. Così, all'insaputa dei tedeschi, procurammo quanto necessario, e cioè accumulatori, giradischi, valvole termoioniche e costruimmo con mezzi di fortuna gli apparecchi, amplificatori, dosatori, miscelatori, eccetera. Bisogna dire che i tedeschi lasciavano fare, o perché non si rendevano conto, oppure perché, consapevoli di una prossima conclusione negativa delle loro vicende, trascuravano la sorveglianza. Intanto gli avvenimenti incalzavano, arrivammo al punto da essere fonicamente isolati, cioè nessun programma perveniva da Milano e il telefono di servizio non funzionava più. Il capo del drappello tedesco mi disse che loro si sarebbero allontanati definitivamente e aggiunse: «Non abbiamo minato gli impianti, non l'abbiamo fatto e non lo faremo, lasciamo tutto in ordine». Così finì il presidio tedesco. Se non ricordo male, mi pare che fosse il 23 aprile. Alle 21 circa di mercoledì 25 aprile 1945 giunsero Tosi, Oggioni e altre persone. Chiesero di vedere gli apparecchi da noi costruiti. Li esaminarono. Ci fecero tante domande. Erano stupiti e dissero che avevamo lavorato bene e che si poteva cominciare a trasmettere. Erano circa le 22. Invitati i presenti al silenzio, iniziamo a mandare l'inno del Piave. Indi, in dissolvenza, Vanna Tongiorgi disse al microfono: «Attenzione, attenzione, qui Radio Busto Arsizio. Stiamo per trasmettere un importante comunicato». L'annuncio fu ripetuto tre volte. Quindi il professor Nino Miglierina lesse con voce solenne lo storico comunicato. «Per proclama del comandante della piazza militare di Busto Arsizio, si dichiara decaduto il regime fascista repubblicano e si esorta la popolazione alla calma e al rispetto delle leggi civili e militari dell'8 settembre 1943, rientrate in vigore. Cittadino italiano, tu che hai sofferto per la tua patria, ancora una volta calpestata dal barbaro nemico, l'ora della tua liberazione è giunta. Lavoratore, ancora per qualche giorno controlla ogni tentativo di distruzione delle tue macchine, delle tue officine, delle tue fabbriche, delle centrali elettriche. Salva la tua ricchezza di domani. Industriali, disponete perché il lavoro continui, perché le messe aziendali non abbiano a subire interruzioni. Donne, siate degne dell'ora che volge. Italiani tutti, al vostro posto per la battaglia». A quell'ora nessuno sapeva in Italia quanto avveniva. Le stazioni Eier in onda media non trasmettevano. I giornali non venivano stampati. La notizia, diramata dalla nostra stazione radio, fu ricevuta con chiarezza anche a Palermo e in America, dove fu ritrasmessa, e non è esagerato dire che fece il giro del mondo, tornando in Italia prima che iniziassero a trasmettere le stazioni in onda media e prima ancora che fossero pubblicati i giornali. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Giovanni Lombardo «L'Italia liberata a onde corte», da Avvenire del 19 aprile. Lo scorso 2 aprile si è spento Rosario Bentivegna, uno degli ultimi eroi della Resistenza, autore della strage di Via Rasella. Un personaggio controverso, come commentava qualche giorno dopo Mario Cervi sulle pagine del giornale. Nella strage, infatti, oltre ai soldati tedeschi, persero la vita anche 6 civili e un bambino. E anche a sinistra c'era chi lo accusava di non essersi arreso ai tedeschi, rendendosi in qualche modo responsabile del successivo sterminio delle fosse ardeatine. Si è spento a 90 anni Rosario Bentivegna, che collocò e fece esplodere il 23 marzo 1944 la bomba di Via Rasella, 33 territoriali del battaglione Bozen, formato da altoatesini, rimasero sul terreno. Per rappresaglia, i tedeschi uccisero alle fosse ardeatine 335 civili, ebrei prelevati dal carcere o resistenti rastrellati all'ultimo momento. La lista dei giustiziandi fu compilata dal colonnello Herbert Kappler, che mentre allineava i nomi accarezzava un cane malato. Per la strage delle Ardeatine è tuttora agli arresti domiciliari a Roma l'ex capitano delle SS Erich Priebke, che era in Argentina e del quale l'Italia ha ottenuto l'estradizione. Bentivegna era un combattente, alla cui memoria Giorgio Napolitano ha dedicato commosse frasi di cordoglio. Di fronte alla morte ci si inchina, però alcune espressioni usate dal Presidente della Repubblica: resta indiscutibile il valore ideale del suo coraggioso apporto alla liberazione del paese dalla tirannia nazifascista, ci sembrano, anche in un momento come questo, troppo enfatiche e celebrative, e nello stesso tempo troppo lontane dall'asprezza della polemica che attorno al gesto di Bentivegna è divampata. Era, ripeto, un uomo coraggiosissimo, ma anche i fanatici spesso lo sono. Per noi quella bomba ebbe un fine politico, non fu di alcuna utilità militare e causò la risposta sanguinaria dei tedeschi. Si può giudicare quel gesto in vario modo, ma non ignorarne gli aspetti cupi e le conseguenze tragiche. Bentivegna, studente di medicina, fu subito impegnato in un GAP, uno dei gruppi che procedevano anche contro la volontà dei comandi partigiani ad atti terroristici. Collaborò con lui in via Rasella Carla Capponi, che sarebbe diventata sua moglie, e altri resistenti. In molti libri e con una serie di iniziative giudiziarie, Bentivegna si difese dalle accuse che anche da sinistra gli venivano mosse per aver attaccato i tedeschi nell'imminenza della liberazione di Roma, che avvenne il giugno successivo, allo scopo politico e propagandistico di accrescere l'odio verso l'occupante. Si affermò anche che i tedeschi avevano affisso per tutta Roma manifesti che intimavano agli attentatori di arrendersi e che Bentivegna, non facendolo, avesse causato l'eccidio delle Ardeatine. Questa versione dei fatti è infondata. La ritorsione terribile fu ordinata a tambur battente e attuata in segreto. Tuttavia i gappisti, anche questo è certo, non potevano pensare che l'attacco al Bozen, progettato ed eseguito mentre si negoziava per proclamare Roma città aperta e rivolto contro un reparto non impegnato dei combattimenti, restasse senza conseguenze per gli sventurati, ebrei e non ebrei, che erano in mani naziste e fasciste. L'azione avrebbe potuto avere un significato se si fosse collegata a un'insurrezione cittadina, che la placida città eterna si guardò bene dal tentare. Un altro aspetto della strage, da Bentivegna sempre tenuto in sordina e subordinato a quelle che egli riteneva esigenze insurrezionali, è che per effetto della bomba persero la vita anche un bambino e 6 civili italiani. Nel suo libro Achtung Banditen, Bentivegna ha rivendicato la legittimità anche morale dell'attentato, aggiungendo: «È veramente difficile dire dopo se ci saremmo spontaneamente presentati ove ce ne fosse stata offerta prima l'opportunità». Coraggiosissimo, certo, Rosario Bentivegna, ma anche un estremista, che pur nella Roma ormai presidiata dalle truppe alleate, era pronto a sparare. Il 5 giugno del 1944, l'ingresso delle truppe del generale americano Mark Clark era avvenuto il giorno prima. Bentivegna ebbe uno scontro a fuoco con il sottotenente Giorgio Barbarisi della Guardia di Finanza e con un militare che l'accompagnava. Secondo il racconto di Bentivegna, i due erano intenti a strappare dalle bacheche d'un edificio che ospitava il PCI e le rotative dell'unità gli striscioni con la scritta «Viva gli eserciti alleati, viva l'Italia libera». Sia il Barbarisi sia Bentivegna, al cui fianco era ancora una volta Carla Capponi, erano armati e spararono. Barbarisi fu fatto secco. Una corte militare alleata condannò in primo grado Bentivegna a 18 mesi di carcere per eccesso colposo di legittima difesa. Successivamente una corte d'appello lo prosciolse per legittima difesa, ordinandone la scarcerazione. In una pagina del volume «L'Italia della guerra civile», a 4 mani con Montanelli, avevo rievocato l'episodio accennando alla condanna di primo grado, ma ignorando per negligenza l'assoluzione piena. Bentivegna ci querelò e dovette essere risarcito. Un combattente. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Mario Cervi Il discutibile valore di Bentivegna, stragista di Via Rasella, dal Giornale del 4 aprile.